Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Chissà perché questo ragazzo ha uno sguardo così mesto, chissà perché guarda fuori del finestrino con gli occhi perduti nell'orizzonte, chissà perché a volte guarda con nostalgia foto di una donna nel suo smartphone, probabilmente cela un segreto amoroso così importante che non posso fare a meno di domandargli qualcosa. Solo amici, diciamo, non c'era altro. No, mai stato altro. Era l'ex di un cugino e ogni tanto si usciva insieme, fine. Sì, perfetto. Quindi io poi, con la mia vita, io poi ho avuto una bambina da una relazione, a un certo punto la relazione è andata male, insomma, e tutto quanto. Poi ci siamo rincontrati, ci siamo visti una sera, ho detto sempre, ma visto che siamo così amici, siamo così bene, così di feeling, perché non proviamo a frequentarci in un altro modo, in un modo un po' più importante? Ma così, senza che ci fosse mai stato nessun accenno? No, nessun accenno. Diciamo una decisione strategica, dice siamo soli, ci siamo amici, ci stiamo bene assieme e proviamo a stare assieme. Sì, praticamente così, questa era l'intenzione. Ma da chi l'ha lanciata la proposta dei due? L'ho lanciata io, comunque sì, lei è una bellissima ragazza, quindi cioè mai avuto discussioni in questi anni di amicizia. Sempre e non l'aveva mai vista con occhi diversi, al di là di un'amica? No, a parte un'attrazione, perché comunque sì, lei era sempre stata bella, però... Cioè a lei piaceva comunque, era sì, sempre... come ragazza, noi, se no, cioè come si dice, non le si può dire niente. Ma era segretamente innamorato o soltanto così? No, un'attrazione, cioè insomma, è colpito dalla sua bellezza, sempre. No? Vabbè, una bella amica. Sì, normale. E lei mi dice, sì, va bene, ci devo pensare un po', perché non ti ho mai visto sotto questo aspetto, però... ci vediamo tranquillamente, organizziamoci così, ne parliamo bene. Non sei sconvolta, diciamo, non l'ha vista, come dire, no, ma cosa pensi di me, niente. No, sinceramente no, perché forse anche lei vedeva in noi questo possibile feeling, non lo so. Comunque non è che è caduta le nuvole, come ti permetti di pensare, no. Ci pensiamo. Sì, e lei dopo qualche giorno mi chiama e fa dai... vediamoci così, ne parliamo un po' e affrontiamo la cosa. Cioè, tutta una cosa molto razionale, scelta molto soffice. Certo, diciamo... anche tanto razionale per pensarla come un rapporto serio. Amoroso. Sì, però nel senso amoroso, perché comunque sia il sentimento del bene c'è sempre stato, quindi... Era una razionalizzazione di un rapporto, cioè tanto ci vogliamo bene, siamo amici, andiamo a vivere insieme, proviamo. Sì, è stato questo, il succo è stato questo. Poi... lei mi dice quello famoso sera, io però ti devo parlare, non ti ho mai detto che per molti anni insomma ho nascosto a tutti, quindi comunque alla mia famiglia, perché comunque poi ci conosciamo tutti, cioè, quindi è sempre rimasta una persona di famiglia lei, e io ho un brutto male, sto combattendo da 7 anni con un tumore in una parte del corpo molto aggressivo, io sono rimasto, cioè sono caduto dalle nuvole, perché non nessun segno fisico di nulla. Vabbè, tante volte non è che il tumore si vede per forza, può essere. Infatti, per carità, infatti. E il cugino, okay. Il cugino non sapeva nulla? No, perché praticamente, appena loro stavano lasciando, lei lo ha scoperto, come ha sempre raccontato. Cioè, diciamo, mi sono lasciato con tuo cugino, ho scoperto di avere un tumore, ahimè. Beh, all'incirca, sì. Questo è ben un... E da quanti anni l'aveva? Comunque, lui aveva 5-6 anni, ce l'aveva. 7 anni, come dice lei. 7 anni? Sì, quindi praticamente un anno prima che si lasciasse con mio cugino, bene o male, ha scoperto questa cosa, però lui l'ha sempre nascosto, come lei ha sempre detto. Vabbè, è un tumore nascosto. E dico, vabbè, qual è il problema? Insomma, affrontiamo insieme, insomma. Non è che scappo per questa cosa. Beh, è un bel gesto d'amore, perché queste cose... Sì, non è semplice, però comunque sia... Cioè, non si fanno per chiunque, ecco, soprattutto una persona con cui non è che abbia avuto rapporti se non superficiali. Quindi vabbè, era ben intenzionato qui. Sì, ha fatto tutto questo e ok, e iniziamo a fare questa relazione, alti e bassi. E ho visto lei molto differente da come, cioè, ho conosciuto un'altra parte di lei, perché giustamente un conto è conoscersi fuori casa, un conto è conoscersi in una convivenza. Quindi vi siete messi insieme? Sì, ci siamo messi insieme. Ma come avete fatto? No, su una cosa così a freddo, con un'amica che conoscevi da 15 anni, improvvisamente usarla, considerarla come una persona che si ama, andarci a letto, improvvisamente, com'è possibile? Perché forse a questo punto poi non vedevi l'ora, ecco. Forse ragionando magari c'è sempre stata un'attrazione anche nascosta, forse. Quindi avete tirato fuori qualcosa che non potevate tirar fuori perché c'era di mezzo altre persone, ecco, tutto. Probabilmente sì, probabilmente. Quindi avete vissuto da fidanzati, praticamente da conviventi? Sì, 7-8 mesi, insomma. Poi è stato bello questi mesi, come sono stati? È stato bello sotto alcuni aspetti, però sotto altri c'erano molte cose che non... E dimmi gli aspetti belli, come erano gli aspetti belli? Aspetti belli comunque sia quando sei con una persona... Cioè, che scopri delle parti di una persona che comunque io conosci da tanto tempo, alcune sfaccettature giustamente. Era proprio le parti che da 15 anni volevi scoprire, quindi praticamente. Che sì, che avevi visto, tante cose belle le avevi viste, quindi hai conosciuto tanti lati belli. Altri più belli li hai scoperti dopo, però magari se conoscete altri che non erano così belli. Comunque eri contento, avevi scoperto e finalmente potevi avere un amore, ecco. Sì, diciamo di sì. Sì, e i lati brutti quali erano invece? I lati spiacevoli? I lati spiacevoli erano un suo atteggiamento misterioso su tante cose, anche su questa malattia. Lei nascondeva tutto, nascondeva le terapie, gli orari. Quello mi sembra strano, perché vivendo assieme e stando assieme cioè è un po' difficile nascondere una terapia perlomeno intensiva su un tumore se due persone dormono assieme, vivono assieme, mangiano assieme. Sì, però io infatti ho sempre dubitato su questo fatto, però ho sempre detto non posso pensare sempre male, anche perché ci... Ma mi hai visto medicine, analisi, niente? No, non ho mai visto. Questo è strano, perché un tumore, 7 anni, meno male lo tieni sott'occhio, qualche analisi doveva avercela, no? Lei faceva terapie tutte le settimane, un giorno della settimana. E ma che terapia faceva? Perché... Faceva da prima chemioterapia, una chemio. E non aveva tornava a casa, non c'era nessun segnale? Era solo, diceva che era stanca. Intanto era una terapia che la stancava. Io, ma non so. Perdeva capelli, nulla, tutto no. No, una ragazza bellissima, ecco. Sana. Infatti ho i dubbi. Lei una volta, due volte a settimana usciva, tornava stanca, cioè quando sono stanca ho fatto la chemio. Però non c'era nessun segnale. No. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Poi la chemio l'ha interrotta perché è iniziato a fare una radio per assunzione per un liquido radioattivo in ospedale. Andai in ospedale, sono andata a prendere il liquido, tornava e tu non... Lei è sempre uguale, normale, tranquilla? Sì, sempre. Ma tu tranquilla. Non l'hai mai accompagnata all'ospedale? Gliel'ho sempre chiesto, mi ha detto queste cose, ti prego, sono abituata ad affrontarla da sola perché non voglio sentirmi... Che però ci sta pure come cosa. Ci sta, infatti... Cioè, non puoi pensare male di una persona che conosci da tanti anni. D'altronde è un problema, lei deve decidere come affrontarlo. Ma lei lavorava, aveva un lavoro, un'attività? Lei sì, lei lavorava, però lei lavora per se stessa. Cioè, la libera professionista. Scusi, non mi... E tu hai un lavoro? Sì, io lavoro normale, sono un dipendente, quindi per i miei orari, di tutti. Quindi diciamo entrambi avete anche la vostra vita, la vostra autonomia, non è che nessuno da mantenere l'altro, ecco. Assolutamente nessuno doveva mantenere l'altro, però per esempio quando abbiamo deciso di fare questa cosa, avendo una casa di proprietà, gli ho detto partecipiamo alle spese a metà, mi fa sì, va bene, però il gas non ce l'abbiamo perché c'è stata una rottura, c'è stato un distacco per una rottura causato da dei lavori fatti da dei privati qui e c'è una causa in corso con degli avvocati. per far ripristinare il cast. Ho detto, vabbè, ho detto scusa, ma vuoi a mano, che tanto magari non so, conoscenza, avvocati. Ma no, ci sto pensando un mio amico che io che pago tot al mese, quindi. Vabbè, ok. E questo gas non arrivava, poi sono andato. Ma cosa, come facciate a cucinare senza gas? Farvi la doccia? Come facevo? Io faccio un lavoro di manuale. T'arrangi, diciamo. Sì, ho costruito un po' di cose, ho costruito dei fornelletti da campeggio. Quindi stavate a casa di lei comunque? Stavate? Sì, a casa di lei. Che non c'era il gas era tagliato, quindi quei fornellini, ma anche la doccia come la facevi, calda? La doccia calda, c'era uno scaldabagno sempre a gas butano, quindi con la bombola. Sì, vabbè, te eri arrangiato, sei una persona. Sì, sì. Ma la casa com'era, bella, lussuosa, com'era? Sì, una casa stupenda. Però stranamente hanno tagliato, cioè non c'era il gas. Non c'era il gas perché praticamente questo gas era stato staccato per un problema. Questa rottura della conduttura principale che portava il gas poi a una parte dell'isolato di questo quartiere. Che a me tornava strano perché sentivo le caldaie partire. Cioè, c'era tutti meno che a casa vostra praticamente, però uno non va a pensare male di una persona che conosce da tanti anni. Sì, il sospetto era che gli hanno tagliato il gas perché non pagava la bolletta, no? Il mio sospetto era questo, ma insomma, essendo una persona abbastanza facoltosa, non avrei mai pensato. Vabbè, sai, però a volte i ricchi sono anche molto tirati, che ne sai? Non lo so, infatti poi mi sono andato, poi ho fatto delle indagini, ho fatto dei sopralluoghi, sono andato a cercare il contatore che non era proprio vicino a casa, perché è un quartiere di Roma un po' complesso, e il contatore era dietro delle ville, insomma, lì vicino, e ho visto che invece c'era una batteria di contatori con una sola tubazione di portata, di mandata, e il gas c'era, il suo era chiuso. Aveva chiuso la società del gas o era chiuso? No, era chiuso con dei sigilli. Quindi no, vuol dire che non pagavi la bolletta, quanto ti tagliano il gas? Mi sono informato e lo chiudono anche in caso di perdite. Siccome c'era un odore di gas, ho detto forse l'hanno chiuso per delle perdite, quindi forse questa perdita c'era. Poi invece mi sono informato tramite delle persone, degli amici che lavorano in questo settore, e sono risalito che il contratto era stato cancellato perché non è stato pagato molti mesi prima. Per insolvenza? Come per succede? Insolvenza. Vabbè, e quindi ma tu sei andato a un chiarimento, hai detto perché non paghi la bolletta? No, io gli ho detto guarda che ho scoperto che il problema del gas non è come dici tu, ma allora mi hanno truffato, mi stanno truffando. Ho detto va bene, allora se ti stanno truffando dammi l'email. Paghiamo la bolletta e ritorna il gas. Sì, paghiamo la bolletta, ma dammi l'email anche di questi avvocati, che mettiamo un avvocato vero e risolviamo questa truffa. Ah no, non trovo più documentazione, non so più che hanno fatto. Ancora andate avanti con i fornelletti. No, ma appena scoperto questa cosa, poi ho fatto 2+2, questa cosa l'ho scoperto, cioè, insomma, queste indagini le ho fatte dopo mesi, perché non volevo pensare male di questa persona. No, non volevi nemmeno interrompere il rapporto, se ci stavi bene. Tra parentesi. E alla fine sono a scoprire che questa cosa praticamente non era, il gas era così, e lei non mi ha dato la documentazione. Allora io ho detto a questo punto ho fatto delle altre ricerche. Anche il tumore poteva essere una bufala, ecco, questo. A quanto pare sì, perché l'ultima terapia che lei diceva di fare, che era una terapia per ingestione di un liquido liquido radioattivo, va fatto sotto controllo e sotto ricovero di almeno 48 ore, perché giustamente. Quindi lei invece andava, stava via un paio d'ore, pigliava sto liquido e tornava, sembrava strano, tutto strano, infatti effettivamente era tutto finto. E quindi hai capito che faceva quando andava via? No, non l'ho capito. Manco vuoi saperlo tutto. No, sì. Non voglio saperlo perché conoscendo i suoi pregressi, conoscendo i miei, avevo messo in conto dei possibili tradimenti. Qua che è, quello ci sta, perché non può succedere. Però una cosa del genere non me l'aspettavo. Ma c'è bisogno, si inventa tutta sta storia, basta dire vado dal parrucchiere, vado in palestra, vado, c'ho una riunione di lavoro, cioè le tipiche scuse che uno inventa. Non so che dirle. Beh, com'è andata a finire? A finire che una volta che ho scoperto che le cose erano così, quando a lei ho detto documentami quello che tu dici, perché a questo punto ho bisogno di prove tangibili, ho bisogno che tu mi dai, non dico una cartella clinica, ma ti accompagni a fare una di queste terapie, dammi le mail di questo fatto del gas. Sei arrabbiata? Sì, sei arrabbiata, mi fa, ci sono rimasta male che tu non ti fidi di me dopo tanti anni che ci conosciamo. Ho detto scusami, no, io mi fido di te, le cose qui non tornano, visto che ci conosciamo tanto, io poi insomma sai la mia situazione, in cui sia vengo in una situazione con una bambina piccola, quindi un po' di problemi ce li ho, a collarmi anche i tuoi, ho detto fino a un certo punto. Quindi vi siete lasciati? E quindi sì, ho detto a me non va, ho detto a me le cose non tornano e quindi mi lascia, quindi me ne sono andato. E lei l'ha cercata poi dopo? Sì, i primi giorni mi ha cercata, mi fa: ti stai sbagliando, il mio amore per te è puro, è vero. Comunque parlava d'amore, cioè non era una cosa superficiale. No, parlava di amore, la storia di sua, la storia più bella della sua vita, insomma, ha trovato finalmente l'uomo ideale. E l'ha lasciata andare così per una bolletta del gas? Mi sembra strano. E infatti quello che non ho capito. Ma non ti è venuto mai il sospetto di seguirla una volta quando andava a prendere sto liquido e vedere dove andava? Io questo l'ho fatto proprio il giorno che. E dove andava? E dove andava? L'ho seguita un giorno a caso, che lei mi ha detto che andava a risolvere questa storia del gas, poi l'ho fatta, gliel'ho detta, invece è andata per cavoli suoi con un suo amico di fiducia, che quindi non ho dubbi su questo ragazzo, però non ha fatto quello che. Ma dove sono andati con questo amico? Dove andati? No, sono andati in giro a fare delle compere, insomma, giri così. Normale, un giretto, niente di strano. No, niente di compromettente, però lei per tutta la giornata mi. Perché io la seguivo e messaggiavo, mi diceva che stava da altre parti con altre persone, stava risolvendo questa storia. Beh, però guarda, in un rapporto qualche cazzata ci può anche scappare. Sì, però inventarti la storia del tumore da 7 anni. Ti sei fatto una domanda? Allora, o era veramente molto innamorata e un po' strana, perché lei alla fine che gliene è venuto di star con te questi 7 mesi, di pigliarti in casa? Le è venuto che lei non ha avuto spese di nulla. Ah, ecco, questo però è un particolare che tu l'hai mantenuta questi mesi? La spesa per il mangiare, la spesa per scaldare la casa comprando la linea. Cioè i soldi nel menage li mettevi soltanto te? Sì. Lei non ha mai cacciato un soldo? Si contano sulle dita in questo rapporto. Ma dicevi che era facoltosa? Sì, sono quelle poi le cose che. Ma questa essere facoltosa come. Cioè, aveva belle macchine, gioielli, vestiti, spendeva? No, la casa, una bellissima casa, dei genitori spettacolari, che comunque sia, si vede che stanno bene, che fanno due, che hanno due lavori molto facoltosi, insomma, cioè. Che guadagniamo molto, una famiglia di medio-alta borghesia, laureati, quindi persone. E che però c'ha la casa senza gas, senza riscaldamento, senza cucina. Senza riscaldamento. Ma lei dove andava a mangiare prima che tu entrassi in quella casa? Non lo so, non so che dire. Io ho sempre vista in questi 13 anni una persona normalissima. Sai, le persone normali finché non le frequenti, quando cominci. E adesso quanto tempo è passato? Poco, è passato un mesetto neanche. E non sei più fatta viva. No, mi sono andato a prendere le ultime cose, come le ripeto, le prime 2-3 volte con un'aria rassegnata, triste. Poi, dopo 2-3 volte, niente, c'è stato un cambiamento di freddezza assurdo. Se n'era fatta una ragione, insomma. Sembra di sì. Poi guarda, io mi rimane un dubbio. Io non credo che una persona, cioè, a quel livello, soltanto per vitto alloggio, si prende una persona in casa che non gliene importa niente. Mi sembra strano. Se mi dice che è una bella donna, una bella casa, ma poteva trovarsene uno a settimana di uomini se fosse stato quello il problema. Appunto, io non volevo credere a tutte queste cose che non tornavano. Che bisogno aveva di prendersi una persona dentro casa? Che comunque è una cosa pesante. Tenere uno in casa che sì, non voglio bene, non lo ami, che è pesantissimo dopo un po'. Non è dire. Perché tu sarai bellissimo, un grandissimo amatore, non lo so. Un ragazzo normale, no, una persona. Vabbè, ma metti caso che hai tutte le qualità del mondo. Va bene. Anche averti in casa per 7 mesi, cioè, ma chi te lo fa fare? Non lo so, io infatti non me lo sono chiesto. Ti rimane questo dubbio? Sì, mi rimane questo dubbio, ma a questo punto mi spaventa il più il sapere del perché una persona che conosce tanto tempo si debba inventare una malattia del genere per nascondere qualcosa. Evidentemente aveva delle cose talmente indicibili per te che quando le faceva voleva qualcosa di fortissimo, in modo che tu mai nella mente ti fosse balluginata l'idea di andare a vedere che faceva. Te la pesca che è seconda vita, terza, quarta vita. Ma sai, ognuno di noi è pieno di segreti. I suoi, sì, evidentemente, erano indicibili e tu non dovevi saperli. Fattene una ragione. Infatti, la ragione me la so fatta. In bocca al lupo, ciao, buon viaggio. Crevi, grazie anche a te. Finta che hai fatto un sogno, così non ci pensi più. È giusto questo devo fare. Ciao, ciao. Arrivederci. Il treno va. Ricordiamo ai signori viaggiatori che il treno va non effettua servizio di prenotazione obbligatoria con posti assegnati. Finalmente si cambia qualcosa di nuovo, una ragazza che legge un libro il cui titolo è scritto in ideogrammi. Non ho possibilità di capire se è cinese, giapponese, comunque scritto in ideogrammi orientali. È un libro di testo, non è certo un libro di intrattenimento. E quindi questa ragazza probabilmente studia cinese, no, il libro è cinese, non posso sbagliarmi dalle illustrazioni. Una ragazza italiana che legge un libro cinese, chissà perché, la curiosità di saperne di più è inarrestabile. Allora, l'ultimo viaggio che ho fatto sono stata a Qingdao, la città dove fanno la birra, che sta al nord della Cina. La birra cinese è famosa? La birra cinese, però la ricetta è tedesca, perché questa città è stata concessione tedesca fino al secolo scorso. Per cui se vai in centro trovi architettura tedesca, palazzi tedeschi. Ma in Cina? In Cina, sì. I tedeschi, prima di andarsene, hanno lasciato in eredità una fabbrica di birra e che i cinesi hanno pensato qui bene. Qui sembra di stare in Germania, solo che vedi i cinesi intorno a te. Esatto, c'è anche una chiesa. Una Chinatown tedesca dovrebbe. Esatto, al contrario. L'esquilino tedesco in realtà sei in Cina. Esatto. E sì. Tu che sei andata a fare a Qingdao? Io studio cinese. Ah, ecco, sono la sinologa. Esatto. E perché proprio lì ti piaceva quel posto? Allora, perché intanto non ha 22-23 milioni di abitanti come Shanghai o Pechino, ce n'ha soltanto 9, per cui è un paesone. 9 milioni? È un paesone, sì. E poi sta sul mare. Io mi illudevo di poter fare i bagnetti al mare. Invece è una cosa sporchissima, ovviamente, perché di fronte c'è la Corea, poi c'è il Giappone. Non è che mi aspettassi i Caraibi, però sono andata là. C'è le schifezze della Corea, del Giappone, della Cina, tutte concentrate. Esatto. Quindi non si fa il bagno. Io l'ho fatto una volta, ma mi sono grattata tutto il tempo. Quindi acido solforico. Più o meno i cinesi sì. Lo fanno il bagno? Sì, sì, loro sono abituati. Vabbè, saranno, ma hanno la pelle coriacea, esatto. Agli acidi corrosivi. E che si fa poi lì, a parte bere la birra? Bevono la birra? Tantissimo, anche perché non costa niente. Si vende al mercato sfusa, te la mettono dentro le buste di plastica. Come la busta di plastica? No, è vero, tu vai al mercato. È una bustata di birra? Sì, esatto, che poi sembra e per birra cosa. Che fai? La cannuccia. Con la cannuccia? Sì, tu vai al mercato, compri frutta, verdura, carne, pesce. È una busta di plastica di birra. E poi hanno grandi contenitori dove spillano la birra, te la vendono appeso. Poi c'è la bilancia, tipo quella. Quindi ha 2 chili di birra. Esatto. E te la mettono nella. Nella cifilla la cannuccia. E bevi per strada, passeggi con questa busta. Con la busta? Beh, sembra le analisi delle urine, scusa. Esatto, infatti tutto sembra tranne che. Che birra. Beh, però è così. È buona la birra. È calda. Rafforza la mia tesi orribile. E quindi per. Cioè, la birra calda, esatto. Perché i frigoriferi ci sono, sì. Sì, però la medicina cinese dice che le bevande fredde fanno male al pancino. E quindi bevi birra calda? Temperatura ambiente, quindi è calda, fondamentalmente. Quanto tempo c'è stato in questo paradiso? 5 mesi. Adesso, come passavi la tua giornata? A parte lo studio, com'è la vita in quella città? Non è esattamente la vita che facciamo noi qui. E che si fa la sera? È una città mediamente internazionale, nel senso che ci sono tanti coreani perché la Corea è lì di fronte. C'è anche i coreani sono giapponese. Molto goderecci. Esatto, quindi è pieno di ristoranti coreani. Sombriacano sempre la mamma sera. Mia. Lo sport, fanno le gare. Lo sport nazionale, certo. Esatto, fanno prima a chi ingoia più wasabi e poi stempera con la birra. Poi loro hanno il soju, che è una bevanda. Sì, è la bevanda nazionale. Esatto, e quindi. Che è una cosa imbevibile. A me piaceva solo quello al limone. E quindi oltre a farti di soju con i coreani che facevi? ogni tanto andavo in qualche locale, perché comunque c'erano dei locali. Il locale che vuol dire? Locale vuol dire, c'erano dei pub, la maggior parte, allora ne erano pochissimi, soltanto un paio faceva musica dal vivo, band rigorosamente filippine, perché i cinesi non suonano, non. E poi c'erano un paio di discoteche, ma a me la musica non piaceva. Però per forza ci dovevo andare. Il karaoke ci sarà stato? Troppo. Il karaoke ogni 100 metri c'è il locale karaoke. E non ci sei andata? La prima volta sono andata con dei ragazzi cinesi che ho conosciuto in un pub. Entusiasti? Sì, vieni con noi. Io per ringraziarli perché mi avevano finalmente trovato un nome cinese che mi piacesse. Qual è? E Li Weiwei. E Li Weiwei, così. Allora, Li. Sembra lo spot di un detersivo. Vabbè, Li è il cognome. Weiwei sarebbe il mio nome. Perché io mi chiamo Silvia. Quindi loro hanno cercato di. Weiwei ti piaceva? Sì, anche il significato, perché Weiwei è una specie di pianta. E quindi mi hanno portato al karaoke. Tu affitti una stanza, Sono tutte stanze tipo loculi con il maxischermo. Però c'è la luce, carino. Sì, gli sì, specchi. Ci sta la palla stroboscopica. Sì, tu, una piccola discoteca, esatto, monolocale. Monolocale, quindi ti danno le spugnette per i microfoni e tu vai lì e trovi tutto. Quindi selezioni la nazione, canti la canzone, canti, ti diverti. Beh, quello è uno dei passatempi nazionali in Oriente. Sì, loro adorano cantare piuttosto che ballare. Ballare sei andata? Sì, ma alle discoteche cinesi no. Proprio bocciate, anche perché i cinesi stanno seduti col cellulare oppure ballano col cellulare in mano così. Ma uomini e donne insieme oppure? Le donne escono pochissimo. Qui uomini da soli. Uomini da soli per rimorchiare, ovviamente. Vabbè, sembra un film di Fantozzi. Sì, ma infatti sono... Allora, tu sei stata rimorchiata? Beh, rimorchiata è una parola opinabile, grossa, vabbè, nel senso allora, che... diciamo l'approccio medio del cinese nei confronti di un'avvenente ragazza italiana. Allora, i cinesi in generale sono molto curiosi. Tutti gli uomini più o meno. Perché lì tu sei la diversa. Quindi appena entri in un locale già ti guardano. Beh, però è un bel training, capisci cosa significa sentirsi diversi in un paese straniero? Ah beh, certo, certo, però loro sono, allora, in linea generale sono molto gentili, ma ti parlo in generale tutti, uomini, donne, beh, tutti le persone. Gli orientali, sì. Sì, sono molto gentili. Poi sono... Sono formali, ecco, diciamo. Sì, sono piacevolmente stupiti quando sentono che tu riesci bene o male a parlare qualche parola. Già, poi tu parli cinese, già è una rarità per loro vedere un europeo che parli cinese, penso. Sì, anche se il mio non è un livello altissimo, però riesco a gestirmi, sì. I metodi di approccio sono particolari. Ma tu da sola andavi in questi locali? Sì, tante volte sì. Quindi eri una preda. Ero una preda disponibile per chiunque. Sì, anche perché io tante volte, ecco, col fatto che la lingua la volevo praticare. Adesso non dire queste cose perché. La lingua cinese. Quindi allora. Io non avevo io stavo nel dormitorio dell'università. Non avevo né cucina né frigorifero. Quindi ero costretta a mangiare a pranzo e cena fuori per forza. E tante volte andavo a mangiare sola. Non avevo sempre compagnia. E, scena tipica, entri in un ristorantino, loro fumano tantissimo, nei locali in Cina si fuma molto tranquillamente, quindi già quello pieno di fumo. Sì, sì, infatti... Subito fa un salto negli anni 80. Sì. Sono rari i locali dove non si fuma. Quindi ti intossichi subito. Sì, anche perché i cinesi fumano tanti, gli uomini. Le donne no, è raro vedere una ragazza o una signora cinese che fuma. Gli uomini e i ragazzi fumano tantissimo. E bevono tantissima birra, anche perché Qingdao è la città della birra e non costa assolutamente niente. Tutti con la loro niente. Borsina di plastica in mano. E loro si siedono, ordinano direttamente le cassette di birra o il fusto. Non vanno a bottiglia singola. La spina proprio. Sì, sì, sì. Io tante volte ho visto proprio il fustino di birra e se lo scolano tranquillamente. E niente, ti vedono tu che mangi tranquilla e beata per i fatti tuoi. L'unica donna nel negozio. L'unica donna, perché io poi c'ho una faccia. Io se voglio andare qua, là ci vado, non è che mi faccio il problema. Ma giustamente, che non devi farti. Poi ho fame. Per donne sole non vanno in giro. No, no, no, no, no. Quindi già lì ero curiosa. Cioè eri etichettata come una donna facile. Questo, nella loro testa non lo so, no, probabilmente sì. A, occidentale e quindi facile per definizione. B, stavo lì da sola, solo quindi. Che io per esigenze stavo lì da sola a mangiare. Vabbè, è fuori dei canoni, questo lo capisco. Ecco, e quindi niente, mi vedevano, ti chiamano, ti invitano spesso sì, ti dicono vieni. Così. E quindi tu vai lì un po' incuriosita perché dici ecco magari riesco a parlare, interagire, conoscere anche le persone del posto. Ti siedi al tavolo? Ti siedi al tavolo. Con quanti uomini presenti? Beh, sempre un paio, meno. No, sì, come minimo un paio, fino a una tavolata anche di 10 persone. Cioè 10 sfigati soli, assatanati, vedo entrare te come... Ma per loro non sono sfigati, cioè loro i cinesi adorano mangiare fuori. Perché per la cultura cinese non è bello intrattenersi dopo cena. E quindi una volta finiti tutti a casa? Tutti a casa, mangiano presto perché si svegliano presto, quindi alle 6:30, 7 è l'ora di cena, un po' come in America. Quindi ti chiedono, ti invitano al tavolo e tu ti aspetti che ti facciano le tipiche domande che si fanno a una persona che non conosci. Quindi che fai, da dove vieni? Come ti chiami, da dove vieni, invece, eccetera. Appena ti siedi, zac, birra e sigaretta. E tu accetti perché, vabbè. Dici, certo, c'è una varietà di intrattenimento. Bevono birra, in un posto c'è solo birra, tutti con la lattina, anzi con il secchio della birra. Ti siedi e ti danno una birra? Ti danno la birra e quello, cioè il vino non lo bevono. E quindi birra e sigaretta. E se non fumi? Vabbè, diciamo che si potrebbero anche offendere. Che devi fumare per fumare? Almeno la birra la devi accettare. Perché se tu vai, se loro ti invitano e tu accetti, per loro ci devi stare. Per poco prezzo dovresti darti, per una birra e una sigaretta. Ma nemmeno negli anni 50 della miseria. Lo so, però loro si aspettano che tu faccia, cioè tu entri è una società maschilista, la donna viene un po' considerata, se prendi una birra, come un oggetto. Esatto. Anche perché dopo 3 minuti ti dicono: allora ti porto qua, andiamo di qua, vieni di qua, andiamo a cantare. Io non ti conosco. Ti portano la karaoke alla fine. Sì, quello è il giro. Sì, è quello il giro. Però se io non ti conosco, io da ragiono da occidentale. Vabbè, ti danno la birretta e sigaretta. Poi? Birretta e sigaretta. Dopodiché, al massimo. Non ti chiedono di solito come ti chiami. Che gli importa? Ti dicono, no, infatti che gli frega, mica ti vogliono conoscere. E quindi? E quindi, vabbè, al limite ti chiedono da dove vieni, da quanto tempo stai in Cina. Dopodiché, stop. E come va avanti? E parlano tra di loro e tu stai là da sola, ti guardi, bevi e fumi, dici, vabbè, ma... E poi? Se questi mi hanno invitato. Dopodiché inizi tu a parlare perché... Cioè, provi. Iniziavo io a parlare, a rompere il ghiaccio. Esatto, mi sentivo in imbarazzo perché bevevo, fumavo, ma... E loro, sì, comunque ti rispondevano, poi... Cioè, non è una... Sì, ma il fine ultimo qual è? Scusa. Il fine ultimo era che tu dovevi venire con loro... A far che? Ad esempio al karaoke, oppure a fare la passeggiata sulla spiaggia. Ma sempre 10 assatanati, te da sola con le sigarette? No, ma di solito era uno che... Ah, sceglieva uno. Sceglieva uno. Il treno va. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori. Ed eccoci finalmente alla letteraccia, all'audiomessaggio, alla storia che mi viene raccontata, come se io avessi facoltà taumaturgiche di sanare laddove, ahimè, la provvida passione ha creato degli screzzi incolmabili. L'amica che mi scrive mi pone un dilemma che difficilmente può avere una risposta razionale, ma l'ascolto lo stesso. Caro Gianluca, vivo un periodo di grande confusione sentimentale e faccio fatica a capire come ho fatto a ridurmi così male, anche se alla fine non incolpo nessuno più di me. Provo a ripercorrere brevemente i passaggi più significativi senza troppa retorica. Per certi aspetti, la mia storia è simile a quella di tante altre donne che hanno deciso di sposarsi con grande entusiasmo verso i 30 anni. Allora amavo mio marito, ma dopo diversi anni di convivenza, 4 per la precisione, qualcosa ha cominciato a incrinarsi. E per la prima volta, in un bel giorno di aprile, ho accettato la corte di un altro uomo, anche lui sposato. Ed è cominciata una storia clandestina per entrambi. Puoi immaginare la difficoltà di vederci, i sotterfugi, le bugie dette ai nostri partner per rubare un'ora di intimità. Tutto è andato avanti per un anno senza grossi problemi. Mio marito non si è accorto di niente e nemmeno la moglie del mio amante. Io non sapevo più che fare. Sentivo di non amare più mio marito, ma non avevo il coraggio di lasciarlo. Invece il mio amante, 2 mesi fa si è fatto coraggio e si è separato dalla moglie. È andato a vivere da solo. A questo punto credo che sarebbe stato assolutamente auspicabile, direi quasi naturale, che la nostra relazione si rafforzasse, non avendo più lui il problema della moglie. E invece no. Appena è andato a vivere da solo, ha cominciato a evitarmi, non in modo netto e brusco, sia chiaro, ma ha allentato la presa, così, lentamente. Ora non mi scrive più come prima, mi cerca poco anche al telefono, proprio ora che non rischia niente. Quando sono riuscito a incontrarlo, lui ha evitato che accadesse nella sua nuova casa. Mi ha detto che ha bisogno di una pausa, che la separazione lo ha fatto molto riflettere, che ha bisogno di metabolizzarla e via dicendo. Ok. Però il tempo passa e il suo atteggiamento nei miei confronti non cambia. Mia cara, mi sembra immancabile. Il tuo amico con cui hai diviso una storia adulterina per qualche tempo ha fatto il grande passo che tu non hai avuto il coraggio di fare e vive solo, è tornato single, è tornato allo splendore della vita autodeterminata. ha splendore di svegliarsi nel letto senza dover fare i conti con nessuno, di andarci quando ti pare, di lasciare anche gli asciugamani in giro in bagno, di poter cenare e lasciare il resto della propria cena sparpagliato ovunque, di non dover render conto a nessuno di quando ci si alza, di quello che si fa, di come ci si veste. Insomma, una condizione invidiabile, e vorresti fargliene un torto se questa condizione non vuole metterla in crisi riportandosi una donna dentro casa. E quindi rassegnati, ti ha frenzonata, ti ha messo nella zona dell'amicizia, che non è un brutto posto, non è una brutta collocazione, ma è una zona senza ritorno. Quando un amante viene frenzonata, un amante ormai non è più un amante, ormai è una cara amica alla quale si possono confidare i propri segreti, e si può portare al cinema, andarci a cena assieme, farci una bella passeggiata, ma non si potrà mai più condividere nulla che assomigli, seppur lontanamente, alla passione. Poi c'è mio marito. Mi ha insospettito questa sua tranquillità così ostentata nei miei confronti in tutti questi mesi, mentre io dentro di me vivevo grandi conflitti. Una settimana fa, mentre ero in bagno, gli ho guardato i suoi messaggi nel telefonino. Ho constatato che sotto quell'apparente indifferenza c'era in realtà una relazione con un'altra donna, che tra l'altro conosco molto bene, visto che ero stata io a presentargliela come mia amica. Ho letto messaggi così spinti che nemmeno in un film porno. Beh, fatta questa scoperta non mi sono riuscita a trattenere. Ho detto a mio marito quel che mi tenevo da anni, gli ho detto tutto quello che pensavo di lui. Lui mi ha ascoltato tutto in silenzio e poi, quando ho finito, mi ha detto: «Ometti, cara, che tu hai una storia da almeno 6 mesi con un altro. Pensavi che non me ne fossi accorto?» Sentire dalla sua voce che non solo lui sapesse del mio amante, ma che avesse deciso di fare finta di nulla e a sua volta tradirmi, mi ha fatto infuriare ancora di più. Non so perché. Mi sono sentita tradita 2 volte, presa per il culo, posso dirlo, da 2 uomini simultaneamente e per motivi diversi. Per non parlare poi della mia amica. Il finale di questa vicenda è ora la mia condanna quotidiana. Vivo con un uomo che mi sbandiera sotto il naso la sua relazione extraconiugale e io non so dove sbattere la testa perché mi sono scoperta all'improvviso gelosa. Mentre del mio amante non so più che farmene, visto che di fatto mi vuole ora solo come amica. Credo di aver combinato un casino e, ripeto, so che ne devo accettare le conseguenze, forse anche troppo, visto che per ora a pagare di tutto questo emotivamente sono solo io. Ma a breve dovrò prendere una decisione sul mio futuro, perché così divento matta. E vabbè, che devo dirti, ci siete arrivati in tempi diversi e in modi diversi. Tuo marito, invece che prendersela, sbattersi la testa sul muro, sbattere la tua sul muro come fanno molti violenti e schifosi maschi, ha pensato bene che, visto che ti aveva perdute, probabilmente vi eravate entrambi perduti da tempo, di consolarsi, e consolarsi proprio con l'amica che tu gli hai presentato, forse una tua amica. E cosa c'è di meglio che chiudere il cerchio in un stretto giro di amicizie? E farlo con un'amica della moglie probabilmente per lui è meno grave, per lui è stato molto più facile, per lui è un po' come farlo in casa, in fondo che male c'è? In fondo non lo considera nemmeno qualcosa di trasgressivo. Dice che hai letto i suoi messaggi, hai letto infuocate passioni che nemmeno tu avevi mai immaginato a quest'uomo, e ti è eroso l'anima di vedere che in fondo quell'uomo che per te non rappresentava più nulla, per la tua amica rappresenta l'obelisco di carne sulla quale le colloca ogni sua più incredibile aspirazione dal punto di vista dell'espansione dei sensi. Questo ti dispiace per tuo marito, che tu già vedevi castrato ormai da quel punto di vista, capace ancora di dare piacere a un'altra donna, di dare illusione, passione. Ti rode della tua amica che sei venuta a razzolare nel cassonetto dove hai buttato gli avanzi del tuo matrimonio e ha capito che in fondo non è roba da disprezzare. Sei arrabbiata per il tuo amante, non è più amante, ma è diventato probabilmente il tuo amichetto e confidente. E cosa vuoi fare? Beh, hai 2 soluzioni. Mandi tutti a quel paese, ricominci da capo, ma non so come, dove, quando e con chi, non vedo prospettive. Fai di necessità virtù, in fondo c'è un marito cornuto contento, che non ti farà mai più problemi, non ti chiederà mai più quello che una volta dicevano fosse il debito coniugale. ben tranquillo, ben contento, continua probabilmente a mantenerti o a contribuire al vostro ménage domestico, si accontenta della tua amica, quindi in fondo le cose rimangono in uno stretto cerchio, ma invita la tua amica una volta a prendere un tè, dici: guarda, so che tu te la fai con mio marito, a me non mi importa nulla, vivete tranquilli e contenti, e comincia a goderti veramente la tua libertà, non più condizionata da gelosie, non più condizionata da ruoli, vivi felicemente il ruolo di separata in casa o di moglie fedifraga o di donna che è capace di gestire le proprie passioni senza doverne rendere conto a nessuno. Ciao.